agganci un gancio come la corda e sei tranquillo, non scivoli, hai capito? Quindi, però devi vedere un po' tu. Mettici, sali su con un bel trapano di quelli cassanatori, ci metti una bella filettata, ci metti di quelle sacche a pizzetta. Una volta che ci hai messo in quattro tassetti sei andente. Ci vuole mezz'ora, ci vuole, ci fili il palo dentro e non si muove più. Ci sono quelle pipette che sono piccole, hanno la curva che è dopo 30-40 centimetri, mi sembra, quindi ci può pensare tranquillamente il palo dentro, da un pollice se andente. Puoi fare così, quattro tasselli e poi ci metti la mano qua sopra, e ci metti tirati naturalmente. E sei a posto. Devi chiedere all'ente popolare se te la fa piazzare. Lo so, come legge te la fanno piazzare, sì. Il problema è quello che è successo tanti anni fa, quello discorso, capito? Che i condomini non è che se lo si erano dimenticato, come era il tetto. Infatti gli avevano fatto togliere tutto a lui. Staffe e quanto c'era, parabola, hai capito? Compresa anche la mattola, tutto, sono saliti sopra e gli hanno staccato tutto. Perché era pericolante, era. E mi ricordo la pigliata di Sant'Anna, gli ho detto qualche giorno scende giù con l'antenna. E poi sono saliti con l'evento popolare e gli hanno staccato tutto, se no c'era già scena, c'era. Sono esatto, ciao Anto, ci sentiamo, avanti Joker. Poi Antonio, l'altro giorno sono passato sotto casa tua, ho visto le antenne, sempre la stessa c'hai Antonio? Sempre la stessa, adesso devono fare il cappotto a febbraio, quindi devo sistemare la meglio perché la mano è già le vita che è un po' piegata, come fa, quindi mi cambia tutti. Ma una volta che installava l'impalcatura, mi viene bene a stare ci fanno da 3-4 metri d'acqua installando, mi viene facilissimo, capito? Sono aspettato quello, no? Una volta che avevo il lavoro del tetto l'impalcatura che fanno che mi parla al tetto, allora stacco il palo vecchio, ci mette il palo nuovo, che era il capocantiere di Giardino sopra, stacco direttamente dal tetto mio. Così mi viene anche meglio, mi viene. E io ce l'ho sul traliccio, Antonio. Io ce l'ho sul traliccio, se metti il traliccio sul tetto, più ho la grazione. Io sto dando la grazione adesso con l'antenna. C'è buona, un'antenna buona. Io volevo comprarmi la... come si chiama adesso, non me lo ricordo. I radiali lunghi 7 metri e lo stilo mi sembra che era 7 metri di lunghezza, non mi ricordo adesso. Costava 98 euro, solo che per il momento non ho speso niente che ce l'avete spese, capito? Non ho per mille balle con questi cavoli di bottiglie di acqua a comprare ogni volta le casse d'acqua, eccetera, eccetera. Ho fatto l'ordine alla passata, mi sono fatto installare il rubinetto, così c'ho l'acqua filtrata e l'acqua normale. Almeno mi risparmio la fatica di salirmi ogni volta a queste cavolo di cose, di bottiglie, di plastica, che pesano, cazzo. Positivo, sì. Cos'era un'antenna? Aveva 7 metri radiali. E che antenna è? Black. Buonasera, ha registrato il Black, un attimo. Che antenna era, Antonio? No, mi ricordo se avevano tornato, non mi viene in mente adesso. Parecchi anni fa, parecchi mesi fa l'ho vista su internet. Devo cercarla e te lo dico. E c'hai 4 radiali da 7 metri, e lo stilo 7 metri lo stesso. Avanti break. Avanti break, buonasera. Dai, 7351, doppio room in frequenza. Sono entrato solo per farvi gli auguri, Gavi, vi ho sentito che c'era una ruota, quindi auguri da parte mia, e niente, dai. Poi poi c'è gente a casa, è solo per salutarvi. Ciao Gianni, buonasera, buon pomeriggio, tanti auguri di buon anno a te e alla tua famiglia, in compagnia di Antonio La Salsa e Antonello Pomponio. Ciao Gianni, auguri anche a te di buon anno, buon Natale, è già passato in pratica. Saluto di bene da parte mia. E ancora dai, salutoni a tutti, fate i bravi, pace e bene a tutti, dai, era solo per darvi un saluto e per far vedere a un amico come funzionava l'apparecchio. Ci sentiamo, QRT per me, buon continuo QSO, doppio room, QRT esecutivo, ciao. Ciao Gianni, doppio room. Ciao Antonio e ciao anche a Luca, dai, ben sentiti tutti e due, dai. Buone cose, dai, c'ho gente a casa, mi dispiace che non le posso trattenere, dai, e poi ci sentiamo le prossime, dai. Vabbè già, si è ripreso. In parte sì, lui, dai, sto già camminando senza stampella. Beh, là, sono contento. Io perché te l'ho travagata, che mi aveva rotto le scatole, gente ti mettono le stampelle. Dai, continuate a fare il QSO tranquillamente, io faccio QRT, dai, QRT esecutivo, ciao ciao. Ciao Gianni, buona serata e buon tutto, ci sentiamo domani se coincide. Riprendi Antonetto, vi saluti a Gianni. Ciao Gianni, ci sentiamo, sta bene, buon QRT, buon tutto e buona cena. E se che sto controllando antenna CD, adesso non mi ricordo il nome, vediamo se mi appare su Google, due minuti. Luca, ma cosa stai combinando? Lo sai, ho preso un alimentatore di quelli che mi hai consigliato tu l'altra volta, di quelli a switching, e l'ho messo su una radietto che ho qua, su una radio, diciamo una Linco, e va veramente bene, 18 ampere. Sei alla grande, capi, vanno alla grande quei corsi. Di lusso, quando ero meraviglia, io ho 50 ampere. Lo sto usando adesso, poi come sai benissimo l'altro, quello che avevo detto, suona alla grande Gabi, di lusso, va bene, so che ti sei fatto l'acquisto delle antenne anche. Scusa Lu, non ti ho capito, so che hai fatto anche l'acquisto delle antenne, quel numero che tu hai girato. È positivo, sì, lo devo prendere, addirittura le ho installate tutte e due, me le ho tarate, perché quelle lì, allora, una era nuova, tu hai detto la scatola mai usata, e l'altra, la mezz'onda, era usata, però era lo stesso nuova. Le ho installate, allora, quella impeccabile, infatti, la 5 ottavi, l'ho aperta, l'ho installata, mi ho fatto le stazionarie col 3009, gli ho fatto diciamo tarata, conservata, e gli ho messo un pezzo di nastro nello sfilo dove dai, almeno se la devo, se mi dovesse servire, cioè, non mi devo assillare. E idem con patate con la mezz'onda. No, ma sono belle, tutte e due me la date. Allora, sono contento. Allora, riprendi con voi, io mi assento un attimo che devo fare una cosa qua. Comunque sono qua, dai. Con Luca. Io capito. Dove l'hai preso con la 50 ampere? Su internet. Su internet? Perché devo prenderlo? Ma da Amazon? No, su eBay. Ah, positivo. Sì, perché lo devo prendere anch'io quello lì grande, perché devo fare una cosa, non per il radio, ma mi serve un alimentatore grosso per fare una situazione qua in campagna. Va bene, grazie, fai quello che devi fare, fai, non ti disturbo. Riprendi Antonio di Sassari. Sto guardando, tornato, Sirio, sì, domanda te io, non è questa. Che cosa è per annunca? Aspetta appena. Perdona, ma tu lo sai che io ho preso una Sirio, una GPS 5 ottavi, e ti devo dire che non è male, non è paragonabile alla Mato, Palagrazioli, vabbè, c'è anche un altro costo, però non è male perché è un'antenna che riceve bene e ha anche molto carico, per essere l'antenna che è. Io già ho capito la Sirio qual è. Sirio è tornato. cinquantenne arriva la macchina, la Grand Prix, cazzo se da se io, ci sono morti. Cazzo, quindi sono peggio di così, cazzo. Fai grado, lascia vedere. Ma tornato questa non serve a niente, ce l'aveva accorso. Cazzo, non mi ricordo qual è adesso. Forse è questa, lascia vedere. C'è la Silvio Super 16, c'è. 162 euro, cazzo? Ma quanto costa questa operazione che ho io? Quanto viene? 256 euro. No, 256 euro, cazzo, vado a come si chiama, il ristorante Magno. Sì, accidenti, questo è il ristorante Magno. Non costa 256 euro questa lavoratura, ma a prezzo pieno, tu se prendi la lavoratura da GT, ne viene intorno ai 300. Allora c'era 70,90 euro da Energy 50 euro, c'è con tre radiali. Poi Antonio, ma è tutta un'altra cosa, se vedi questa qua ti spavvini. Non l'hai vista la lavoratura tu dal vivo? No, non l'ho vista. Se tu vedi la lavoratura dal vivo ti metti le mani in testa, Antonio. Tipo basamento in acciaio, ma in acciaio, e poi gli sfili e i radiali sono un metro e sessanta, sono i radiali, sono grandissimi, non niente a che vedere con quelle sfili o con quelle antennine lì, ma proprio niente a che vedere, cioè un'antenna assurda. Io l'ho messa su 6 metri di traliccio 30x30, qua sul tetto, di traliccio americano alluminio, ma tanto è. Io ho avuto pericolo, ho avuto la Mantova 5, ho avuto la Mantova 1, sì, buone, belle, antenne numero 1, però riguardo al manufatto di questa antenna qua non si avvicinano neanche a odore. Già, vabbè, se in acciaio va è bella. Antenna 27-26-28 MHz, 3,5 dB, guadagno 6,2 metri lunga. I radiali che sono corti, il costo 185 euro, cazzo! Antonio, non c'è niente da fare, non... Se questa qua che ho io se la isoli bene la fai la... e gli fa la manutenzione, c'ho l'antenna di 40 anni. Una volta facevano... aspetta, adesso mi è venuto in mente, aspetta che scrivo, di solito la Mantova c'era in giro, aspetta un secondo. Comunque c'è bene il 140, lo so che c'è bene. È un problema questa radio con questo microfono. Anche con il microfono palmare viene fatto lo spezzone. Già c'è bene già. Si riprende questa palicchia qua. Prova a allontanarti un pochino dal microfono, vedere, Antonio. Sono lontano dal microfono, sono lontano quasi 80 centimetri. Ho la voce bassa, non sono di quelli a voce alta. Allora devi abbassarlo un pochino quel macchinino, perché è alto. Se lo abbassi ti fa la voce molto più chiara. No, posso abbassare il coso, aspetta. Guarda un po' così, a uno il microfono. L'ho abbassato. 1, 2, 3, 4, 5, 6. È alta, ma fa la radio perché non lo producerai tu il macchinino nella radio? Sì che c'è il macchinino, è sulla C, figurati. E abbassalo. Guarda un po', 1, 2, 3, 4, 5, 6. È molto più chiaro, almeno da me sei molto più chiaro, Antone. Da me sei molto più chiaro. Con un degli whisky che stai uscendo, con degli birra, un degli birra che era. Sono 40 quasi. Aspetta. Fa cuffia bene, che allora vediamo un po'. così sono 60, guarda un po'. No, no, era meglio prima. Sono così sono 20, 25. Ed è molto più chiara, molto, molto più chiara. Puoi alzare anche la macchinina adesso. Puoi alzare anche la macchinina, insomma. Sì, 1, 2, 3, guarda, posso, ho sollevato la verificazione. Guarda, adesso guarda, sì, guarda, sì, perfetto, sembra di sì, qua la bandiamo. È uscito il batte 25, a regime, no? Di solito, già lo sai quando lo accendi sale da solo dopo un po'. Sì, è positivo. Questo qua di radio come ti sta rollando, Antonio? Bene oppure è troppo compresso? Così sono a, il mio braccio, sono a 60-70 cm dal microfono. Sì, ci do benissimo. Ok, ok. E, no, anche io, 40 watt. 40 watt sta dando questa. Cazzo, dunque, Mantova 1, non esiste più. Vediamo un po' cosa mi dice Douglas, 290, 58 euro e 90, antenata della base in Midland, questo, vediamo, qual è, intanto questa è la B27L, sì, la Energy, poi cosa c'era, tornado, non me lo frega niente, Sigma X80XP, 1 kW HF verticale, questa è bella, 179 euro, lunghezza, piace bene, quanto è lunga questa cavo, questa è bella mia, questa antenna, allora, la soggetta di quello che è previsto di tutta la spedizione, Sigma, antenna 80 a 6 metri con resistenza in alluminio. Però non c'è la misura. Poi questo è su, dunque l'M antenna Super 16, non ce ne frega più niente. L'altra era la cosa, quella con la canola a pesca, ah no, c'è più, quando va uno esistono più. Antonio, guarda la l'antenna Grazioli HW10V, guarda, antenna Grazioli HW10V. Guarda, cosa è? Però è questa qua una mezz'onda, no? La 580, dicevo, come la mia. Allora. No, questo dice vedi che c'ho il coso, il da fare, il manuale. Allora, Grazioli FE10V. E io ho scritto antenna Grazioli, aspetta vediamo cosa me ne esce fuori. Antenna stazione base, CB omnidirezionale, 20,55 euro, questa è lunga, almeno sono di babà, cazzo, aiutami. Sì, 2016, 169 euro, Super LM 215, ecco antenne, serie antenna, Midland. Cazzo, antenna prosciutto, cazzo, c'è, isso cazzo, antenna radio, 84 euro, 84 euro, c'è la Green Master, 185 euro. Graveno, che, non serve, che a me non mi è mai piaciuta, 56 euro. Poi, vabbè, questa per TV, c'è la Sirio Blizzard, che è prodotto come il coso. Antenna base Lemme, Super Lemme, c'è la 4 radiali, 187 euro. La Tornado, poi c'è l'antenna, quelle a coso, sì, la direttiva, Sirio Tornado. Devo mirarmi, eccola qua. Trovatelo. Allora, Sirio Tornado 5 ottavi, la base 26-29 MHz, con la lunghezza dei radiali 7,2 metri, 98 euro, mi controlla su eBay, l'ho trovata adesso, guarda su eBay, si chiama Sirio Tornado, c'è scritto così, 5 ottavi. La base 26-29 MHz con radiali lunghezza 7,2 metri, costo di spedizione completa la spedizione 98 euro, consegna prevista martedì 11 gennaio e giovedì 12. Ce n'è una solo, cioè. Sì, la sto guardando, 91,50 euro. Bella, è stata tipo questa, tipo questa. Tu guarda se c'hai internet, se c'è internet attivo, scrivi Grazioli FE10V 5 ottavi, Grazioli FE5V 10 ottavi, c'ho il manuale di istruzione qua davanti. Invece volevo fare Sirio. Guarda, Sirio Tornado, 5 ottavi, guardate, va bene. Cioè, i radiali lunghi 7 metri e 2, quindi avevo visto bene, 98 euro costa ancora. Il venditore è assente fino al 6 gennaio 2023, se compri questo oggetto ricorda che è previsto il ritardo della spedizione. Cioè, se avessi avuto 98 euro me l'avrei fatta arrivare. Così avrei tolto la Mantova, ci avrei piazzato quella sul palpetto. Solo che adesso ci ho anche spese da fare, se non me l'avrei comprata. No, se c'hai... Anche io quando ti ho spese lascio perdere tutto, non me la fatti nulla. Però, non posso lamentare di questa qua. Di questa qua non l'ho pagata, però non posso lamentare. Comunque anche quelle GPS, quella GPS, perché ora la GPS e la GPS della Sirio, una e mezzo, un'altra e 5 ottavi, e non è male, guarda, per apportare, per essere fine, non sono male, cioè sono della dimensione tipo la Ringo, quella roba lì, però non hanno niente a che vedere con la Ringo, cioè sono antenne tutt'altro performanti e affidabili. Sì, già lo so. Guarda, se avrei piazzato questa Tornado qua, l'avrei messo un palo da 3, l'avrei lasciato un palo da 3 metri. E... questa sarebbe stata un treno, questa antenna 4, di cui sarebbe uscito per forza. L'avrei messo i tiranti allo stilo per sicurezza, per essere più sicuro. Alla reale non avete toccato niente, l'avete lasciato così come sono. C'è un angolo di radiatura allucinante, c'è 7 metri mica un bembe, 7 metri e 2 di radiali, ce ne sono 4, a voglia di copertura. Ma scherzo, 7 metri di radiali sono 7 metri di radiali, non un gioco, no? Dai, pizza. Copre sì. Io adesso va la prossima che mi prenderò per il voto di un minuto sarà una direttiva o altri 9 metri di traliccio, che non me ne faccio niente, ma traliccio grosso, bello, un alluminio, non un traliccio di ferro, un alluminio, mi metto 9 metri di traliccio, però la metto nella campagna, gli faccio un basamento da 2 metri si faccia il basamento 2x2 e alto 80 cm e la metto a terra, movimenti di traliccio mi faccio la, perché ce l'ho proprio qua davanti a fianco alla casa, c'è un pezzo di cotolo che lo faccio fare, che è libero, e mi prendo una bella direttiva, lo vizia, corto un pochino i soldi, però sono assurdo. Poi stavo guardando anche queste lobe magnetiche di aspetta che te la cerco, allora, antenna lobe di Ciro Mazzoni, guardale, antenna lobe magnetica di Ciro Mazzoni, guarda a vedere, ti metti le mani in testa. Non lo so, io non ho guardato ancora. Comunque, ne sono belle come antenne, ce ne sono tante. Quella tornata, quella, vabbè, ho speso per Natale, ho speso un sacco di soldi. Io già ho vinto 25 euro, ma ne ho speso 100 e passa per Natale. E quindi sono arrivato quasi a secco. Vabbè, si aspetta un po', come in caso ho dato un po' di soldi. Beh, immediatamente me la prendo quella tornata. Così me la metto da parte, quando salgo da su a fare il cappotto, mi approfitto, stacco il palo, tolgo la mandorla, che è ancora buona, le do una bella pulitina, le do la mandorla a turno e ci piazzo un'altra nuova. Guarda la lobe magnetica, guarda le cose di Ciro Mazzoni, le lobe magnetiche, costano 1000 euro, di più, 1300 euro costano, ma sono antenne assurde. Vabbè, ma sto parlando che Antonio l'hai castigato, non sono antenne per me, no, capito, quelle vanno bene per l'animatore, se vuoi fare l'animatore devi spendere un sacco di soldi, ti conviene per fare il venditore di auto, almeno riesci a comprartela, con lo scopo così che si fa uno, ma così io, con quello che ci danno adesso non conviene. Stavi tranquilli e sicuri, chissà come va a finire questo 2023 e anche iniziale, lo sono dato. Perché siamo messi bene, se partiamo con lockdown come in Cina, 9.000 morti alla lì, stai tranquillo che se torniamo in rosso torna, ne vedi i negozi torna chiusi, trove rosse, cosa vedrai? Però no, vabbè, avendo la possibilità, avendo il coso, una di quelle lotte sarebbe stata bella, eh? Sarebbe stata bella una di quelle lotte magnetiche. Perché fanno 0,30, sono HF, sono antenne HF, fanno 0,30, sono meglio delle mie tipe. Ma come andare in Cina, stare un po' lì, capito, pure per la richiesta, per tirare i soldi per aprire un negozio qua a Sassari, almeno un po' gli dai a loro i soldi e un po' ti ritiri tu. Perché se no ti ammazzano, ma così trovano, avanti altro di prima. Ma tu, non so se hai visto quella tornata che stavo dicendo io, 5 ottavi, guarda quella tornata 5 ottavi, 98 euro, c'ha 4 radiali lunghi, 7,32 metri, figurati tu, quindi è un bel me. Mi guardi la fotografia, vai su internet un secondo e te la guardi. Anche a me mi sembrava una cazzata, ho detto ma ti sembra strano 7,32 metri, e c'è scritto così, c'è anche la fotografia addirittura. Lo stilo non so quanto sia lungo, perché non c'è scritto, però i radiali sì, 7,2 metri. ci ho detto guarda su eBay, è un'altra tornado questa, guardatela, vai su eBay e ci metti tornado 5 ottavi, costa 98 euro, ce n'è una sola in vendita, ce l'è. Tu stai pensando, un'altra tornado, c'è un'altra di tornado, ce ne sono due modelli, ce ne so. Quella che sei, l'altra che stai dicendo tu, c'è ragione che non sembra nulla, è quella che ho visto io. E anche c'è ancora in vendita, quella è bella, so che è tutta la provare, c'è va quella. Sì, la Super RLM già lo so anch'io, c'è la quattro variali, c'è quella, c'è la Super 16 addirittura, quindi è buona quell'antenna. E dura quanto la manto va a durare, forse è anche molto meglio perché è più robusta. Sì, ma costa un pacco di anche. Guarda, se avete trovato la Firenze 2, quella già era stata bella a verla a me. Purtroppo sta, sai, non ce l'ha più nessuno, ma se qualcuno ce l'ha conservata in cantina o in soffitta, prima o poi esce fuori, perché negli anni 80 quelle antenne lì ne avevo venduto parecchie di Firenze 2, quelle già erano antenne robuste, anche in VHF tranquillo andavi, figurati tu, faceva tutte e due le frequenze, era un treno, era. Va bene, allora ci sentiamo, se ti devi collegare non c'è problema. Andrà bene Mera. Aspetta che bevo appena di acqua. Minerale. Antonello. È andata bene Gabbi. No, ho capito, non l'ho sentito. Io mi sto controllando degli alimentatori qua. Degli alimentatori di Atene TV. Ho trovato questa Firenze 2, l'ho trovata la Firenze 2, lo sai in vendita. L'hai trovata? Sì. No, io guarda, io alla fine ho tanti anni la manto, posso dire, prova a cambiare con le sue antenne. Per il momento, poi invece dico che la migliore adesso è la Grazioli. Comunque la manto va sempre la manto, ma è inutile. Io sono a 5. È un'altra risultata Fabrizio e di Borsudì che è un gioiello, tutta rifatta al nuovo. È positivo, io ce l'ho la Grazioli, non sto usando io la Grazioli adesso, ma manco la, io sto usando, ho messo la Cerchi, la F10V, è la più grande che ha fatto la Grazioli, è la più grande che ha fatto la Grazioli, perché c'è questa qua e poi c'è la GT che sono uguali. Ti posso dire che mi trovo bene anche io, questa qua secondo me è un'antenna infinita. Non lo so, comunque io mi trovo bene con la mantova. La mantova va benissimo, è resistente, cazzo mi dà giù. Poi so che me l'ha regalata Claudio, cazzo l'ho 10 anni, forse pure 15, Io c'avevo la mantova turbo, io c'avevo la mantova 1 quando ho iniziato e poi la mantova turbo. Sì, sono antenne assurde, però lui ti posso dire una cosa, che la mantova turbo, se vuoi fare manutenzione, metto l'aggancio dei radiali, 5 agganci dei radiali, quelli si consumano tutto correnti galvaniche, è un casino, cioè devi cambiare, è un casino, devi saldarli, farli. Questa qua, questa Grazioli, è tutta in acciaio lì sotto, mi segui, non è in alluminio, è in acciaio. È in acciaio e c'ha tipo tipo maniglioni per mettere i radiali. E un'altra cosa è, io la mantova, ce l'ho una in garage lì. Io ce l'ho una mantova, ce l'ho una mantova 1 io in garage. Ma messa a fianco, sembra la figlia della Grazioli. Sì, non lo metto in dubbio, solo che vabbè. È a gusti da, diciamo. No, va bene, la mantova va bene, poi non lo so, ragazzi, io non so che se va bene, non va bene come antenna, se me lo stai confermando tu. Questa qua, questa che senti, io con questa qui, forse vedete che è pesante, è un bel pesante, è pesante e tirarla su è un problema, da solo. Io me lo faccio perché non mi interessa, è quella cosa, però è un problema a tirarla su ed è un problema se si dovesse rompere, perché quella non la ripari. Beh, immagino. Immagino, capi. Non so. Ma io per il momento penso che questa qua che mi ha sistemato Fabrizio, penso che abbia ancora altri 5 anni di vita. L'aveva fatta bene. È isolato tutta dove c'è, come si chiama, la carica lì, la coperta. Ha cambiato tutto il coso, come si chiama, il dove si riciclava dall'antenna. Aspetta che il PL mi ha dato quello di nuovo, mi ha messo. Tu pensa che c'era, quando l'avevo piantato avevo messo un palo che purtroppo non era c'era ferro, no? Si è arrugginito e me l'ha tutta mangiata. Tu pensa la ruggine con l'alluminio, l'altra mangiata, l'ha dovuta tagliare e rifare il pezzo nuovo. No, ma l'ha tutta rifatta nuovo, sembrava che stavo facendo un negozio. Sì, vabbè, vabbè, ma attenzione, la moto va sempre la moto, vai. Non stiamo parlando di un antennino, non stiamo parlando di un antennino. Però sono, dai, per i materiali, soltanto, per i materiali Graziuli ha fatto, dai, ha fatto una buona cosa, per i materiali ha fatto una buona cosa perché ha usato materiali di pregio, non ha usato alluminio o cosa strana, cioè ha usato acciaio, cioè ha usato acciaio 309, non è un mantellino. Non ha scattato in acciaio, è possibile. No, la lavorazione, il basamento dove attaccano i radiali, allora il basamento dei radiali è in acciaio, i tiri sono in alluminio, però sotto alla carica dove attacca, diciamo, l'alluminio degli sfili, tutto è fuori in teflon, però l'attacco del radiale è la molla che è esterna al caricamento, quello è lo stesso alluminio ma sopra acciaio, è pesante brutto. È meglio che sia pesante, che sia resistente, va bene. Sì, la mantova, diciamo che vabbè, oh, c'è stato che c'aveva anche 30 anni, mi sa, tutta smontata, ripristinata, 30 anni, sono tanti, Ma stai scherzando, ma la mantova ha fatto la storia, la mantova è la regina, la mantova è, diciamo, la numero uno, però ha sempre l'antenna che è stata concepita 30 anni fa e hanno usato i materiali di 30 anni fa, mi segui cosa ti voglio dire? Sì, certo, è un buon alluminio anche, e poi se tutti stavano parlando, tutti, molta gente di questa Game Master, il suo numero si fa un cazzo, comunque. Sì, serve, cioè, no, una buona antenna, ma resistenza poca, non la puoi paragonare alla mantova, no, ma anche no, non esiste, perlomeno per quanto ne capisco io, cioè, sicuro meglio la mantova. Io non la conosco, io questa Game Master non la conosco e non so neanche com'è fatta, sì, so com'è fatta, l'ho vista su internet, ma non l'ho mai vista dal vivo e toccata, cioè diciamo presa, diciamo avuto niente a che fare fisicamente con lei, quindi non lo so, non la conosco, è un'antenna che non conosco. Dalle recensioni sì, si dice che non sia questo granché, si dice che non sia questo granché, però poi tutto lascia tempo che trova, magari manutenzione, invece di scenderla una volta all'anno, ogni 6 mesi la porti giù e gli fa la sua manutenzione, anche lei è un'antenna valida. Ah sì, senza dubbio, ma tu stai facendo sempre service, capi? Sì. Sì, positivo, sì, sempre. Mi sono fermato, per esempio questo capodanno non ho lavorato, dovevo essere a Nuoro con i Nomadi e con la PFM, però non ho lavorato perché ho la bambina piccola e dove ci vuole un po' la mia presenza, perché quest'estate mi ha risentito, non c'ero mai, quindi ho dovuto darmi una calmata. io potevo andare a Calmata e passare il Natale a casa, fare altro e passare il Natale a casa. Beh, bambino alla fine, la figura del padre la devo vedere possibilmente ogni giorno, anche se non succede, non attenziono mai i lavori, ok, ma almeno quando rientri a casa, no, non fa, ho fatto anch'io comunque, se mi si dà, non mi dire chi sono, però l'ho fatto pure io, ho fatto Renga, servizio a Renga, servizio ad Alex Blitti e servizio a Giuseppe Ferreri. Ah, un Cristian, sì, con un tipo di Terribile, servizio di Terribile. Esatto, bravo. Sì, no, anche io collaboro con Cristian, per il lavoro, cioè siamo molto amici con Cristian, ma... Sì. È un po' grosso, non è che come può essere dove sono io, cioè dove sono io, però Cristian è grosso anche, anche lui già non scherza. E lui è un ragazzo che ha avuto coraggio, ha avuto coso, tenacia, e grazie a Dio sta andando. E fa piacere, perché quando una persona nasce da niente e va avanti, merita, pure una brava persona. A me me l'ha fatto tu, io non l'ho fatta noi. Mi ha cazzo di bombolino c'era. Mi sono parlato anche Antonio, là. Comunque non pagano i bè. No. Almeno a noi che partiamo la mattina presto, cioè io ti dico una cosa, capi? Tu che sei in mezzo a queste cose, sono partito alle 8, 8 e mezza da Sassari, ad arrivare a Quattro Sant'Elena, sono arrivati alle 10 e mezza, 11, per una cosellata abbiamo iniziato a mezzogiorno a piazzare, scaricare e piazzare. Comunque, giusto, fatta la breve, io a casa sono arrivato, fatti il conto, dalle 8 e mezza del mattino, l'indomani alle 5, dove quanto mi ha messo in mano? Tu dirai, sì, è arrivato 2 ore, 3 ore, non me la fottino, domani mi ripaga pure lo viaggio, tutto canto, dove quanto mi ha messo in mano? 50 euro. 50 euro? No, l'avrei preso a schiaffi. No, li avrei lasciati, Li avrei lasciati, no, vabbè, ma lascia perdere. Ma stai scherzando, 50 euro? No, assolutamente no. Guarda, chi viene con noi, perché io prendo per il gestito personale, e a fine serata c'ha i soldi, noi si parte, cosa ne so, la mattina alle 9, alle 8 e mezzo, si rientra, non lo sai, perché se si appunta di casino, per esempio a San Mugheo quando ce n'era, l'abbiamo preso, siamo tornati di domani mattina alle 8 a casa, però da 130, capito? Cioè per meno di 130 quel lavoro non si può fare, 120, 130. Gli scarichini prendono 80, lo scarichino lavora 3 ore, mi segui? Ma se sei già un mezzo a una persona che ti dai da fare, che ti dico passa in quel capo, oppure riesci a farti una linea di corrente, oppure riesci a solo, perché per esempio l'impianto me lo faccio io, poi c'è il tecnico audio, questo io tecnico luci, noi facciamo altro. Però se tu dai una mano a me che mi rendo conto che tu sai lavorare, tu i 120 li prendi e li prendi anche puliti. Galvi, aspetta un attimo, Galvi, però c'è da dire questo. Allora, c'è da dire questo. Ti faccio ridere, vuoi ridere? Non lo so, pensiamo di sto zitto, Vai. Allora, questi 50 euro leva 10 euro di gasolio dalla macchina. Per esempio, con questo ragazzo, in più, ho mangiato, ho speso 10-12 euro, a casa mi sono fatto 28 euro. Cioè, una di... E all'otto di tipo di manzano. Quanti anni fa questo? Quanti anni fa? L'anno scorso. Quando è nato? C'era freddo, c'era inverno. Agosto, settembre, ottobre, forse ottobre. Comunque in estate, ha ragione Antonio, ce l'ha caldo. Non lo so, Antonio. Questo che capito non ti senta. Aspetta, non ti sente. Comunque, Gabri, se vuoi, io mi tengo reperibile, se avete bisogno, mi fa sapere tutta la buona dama, però il discorso è che io sono appiedato, magari mi mettono qualcuno d'accordo. Casino è, vedi, che tu sei a Bordottore, io sono a Sassari, se lo vorrei volentieri io mi arrangio, No, allora devo capire una pedaniera, la Bricoma, non è che è tanto lontano, Noi abbiamo capito la Bricoman. Sì, io per tentato la cercavo la gente, perché non si trovava nessuno. Però c'è anche da dire una cosa, noi non la trovavamo perché è un po' quello che facevo noi, un po' diverso, sono grosse produzioni. Deve avere una persona che sa già fare, perché del ragazzo, del coso, del bene a scaricare, c'è la ditta degli scarichini di Cagliari e niente, chiami a loro. Con noi devi già sapere più o meno dove mettere le mani in pasta, non dal primo giorno, però dai, 2 o 3 serate, poi devi iniziare già a capire quali sono i bauli, che capi passarmi, come piazzarmi le dati. È una cosa un po' più seria. Io per tentate la stavo cercando la gente, ma cercando, non trovavo nessuno, eppure la paga era quella, 120 al giorno, fissi, dipendenti, ma assicurato, attenzione, non nel nero, si fa il contratto tramite, per esempio, occasionale, con l'agenzia, tu ti ritrovi ogni 15 hai la busta paga, non sei in nero, così la giornata a carona. Non mi male vedo. Sì, guarda, c'è anche Antonio, se hai bisogno, anche Antonio già, vabbè, magari dovete affiancare un po', io un po' già mi arrangio, però capisci, io metto una persona, perché ci sono persone, no? Diciamo, fai tutto loro, no, faccio io, però se tu hai una persona glielo puoi insegnare, e impara, affianchi, va a fare così, lo usi per una volta, io già la prendo subito, non sono di quelli, perché a me queste cose mi piacciono, sa cosa ti piace, è così, io la prendo subito, certo, la prima io non ti posso dire, però se mi dici come fare, io non lo so fare. Guarda, se è coso, io inizio a fare, cioè, finisco al mondo, inizio la stagione. Sembra vero, a me assicurate tutto. Lì a tu però, mi senti a Gavino che alla fine non è una passeggiata, non penso che sia come stiamo facendo noi, Non penso. Poi, vabbè, mi hai detto che ti potresti fare il facchinaggio, così è Gavino, il facchinaggio è 80 euro, ma 80 euro, cioè, 80 euro poi per mangiare devi arrangiare. Assolutamente no, noi, allora a chi fa facchinaggio gli diamo 80 euro, però è tutto, è compreso di tutto, capito? A voi se ti piglia la birra te la devi pagare, perché con noi non si beve, se devi prendere la birra te la prendi e te la paghi, però l'acqua, l'aranciata, la Coca-Cola ce l'hai, c'hai a pranzo, magari si va, se arrivi a mezzogiorno lì ti fa una focaccina, però la sera al 99% c'è la cena col comitato, oppure si mangia con gli artisti, oppure te hai la pizzeria, capito? Però non c'è niente di nero, si fa un contratto, per esempio in questo mese ci sono 10 serate, si dice, si chiama l'agenzia di dettagli e ti fa un contrattino di 10 serate, mi segui? E poi il mese, per esempio, fai giugno, il fumo tutto giugno, poi il 15 di luglio ti ritrovi il 2030 dall'agenzia, da questa agenzia veterinaria, dello stipendio. Non puoi più farlo in nero, perché viene un controllo rispetto al tuo lavoro, sono guai. C'è gente che rischia, ma rischiare non ne vale la pena, cioè non è un contrattino tranquillo, e tu sei guarda, in pace con te stesso, intanto se ti viene un controllo ti mette a verbale, altro che contratto, dici. Con che lavori, con la Rock House o con Brian? Che lavori? Con Brian. Con Brian è una persona seria. Sì, con Brian. Adesso adesso per esempio io non sono andato al periodo di festa perché, ripeto, sono dovuto stare a casa per esigenze familiari. Però io con Brian prendo la struttura ed esco da solo, ho lavorato con la struttura, lui viene solo a fare la supervisione e niente. Siamo una squadra ottima, buona, e noi già ne ricerchiamo sempre queste persone qua che vengono a darci una mano, anche perché non siamo di quelli fai quello, quell'altro, quell'altro ancora, noi lavoriamo tranquilli, sereni, ti diciamo cosa devi fare, ti diciamo, facciamo le cose con garbo e non ti manca niente perché hai tutto, è tutto, sia il mangiare che il bere, però non ci piace la gente qua che ti ha voce, che ti ha parolaccio, queste cose qua. Assolutamente, no, non ti arrugginano delle bestie, no? Assolutamente. Quelli che fanno così sono delle bestie, sono. Uno deve anche capire tranquillo e deve lavorare tranquillo, a me non mi piace, non è il mio genere. Comunque Gavi, fa un discorso che tu prima tu, della birra, quello è un vizio, e se lo paga uno. Io sto parlando per quanto riguarda, sì, io stesso ti davano da mangiare, ma anche quando c'erano, per dire, tramite il comitato, no? Anche quel comitato andava a mangiare, infatti lì abbiamo mangiato bene allora. Ci ho portato un amico, per carità, un amico, non è un amico, quello è un verme. Comunque, si è comportato malissimo, oltretutto l'ho portato a farlo lavorare, si è comportato malissimo, ma male, cosa vuol dire male? Faccio che qua, un amico da, cioè un ex amico, mi conosce da piccolino, ha qualche anno più di me, ma non si è comportato bene, mi dispiace, perché quando io dico una cosa è quella, se a me Gavino mi chiama, un esempio, no, tu mi chiami, sei un mio amico, cioè, come ha fatto questo tipo che ci chiamava, cioè te ne occupi tu dei pagamenti, facciamo così, diciamola così, e adesso tu chiami a me, io chiamo Antonio e io ti dico tanto passa così così, guarda che ti devi comportare bene, devi fare quello che ti dicono e devi ascoltare quello che ti dicono, e se poi ce la metto io la faccia, perché lo sto chiamando io so di me, perché so di me, l'ho già fatto anche in teatro questo tipo di lavoro, capito Gavi? So di me e so come mi devo comportare, però se mi devo portare un'altra persona, glielo dico io, quindi sa già che quella persona lì si deve comportare bene, perché male se si comporta male, poi te la vedi con me, capito Gavi? Mi dica, cosa mi hai rigato? Cosa mi hai rigato? O sbaglio? No, è così. Però noi, guarda, siamo persone abbastanza serie. Noi non facciamo né chiacchiere né niente. Tu, Brian, se lo conoscete, è una persona seria, non ce la può fare. Non ce la può fare con la tua serietà. E l'unico problema che vogliamo sono la gente che non sia soddisfatta del lavoro, del trattamento che gli diamo. E niente, no, per quanto i soldi e per quanto riguarda a livello burocratico assicura, per esempio se tu dici guarda io sono interessato a lavorare con te a fare tutta una stagione, magari ti dice ti dà le date e ti dice guarda che io ti sto dando magari 10 date, però se ne potrebbero aggiungere altre 4-5, dipende, però in base a quelle 4-5 tu hai sempre il contrattino, mi segui? È una cosa fatta, e sono pochi che fanno queste cose. Certo, aspetta, insomma, ti do fastidio, sì. E invece così, no, va bene, dai, no, ma che sto a fare, tu mi fai lavorare, sto volendo lì. Infatti io glielo ho detto, cioè me lo devi dire da prima, devi essere onesto e dimmi, guarda, ti ho tolto, non ci sarei manco andato, cioè ti pari, e allora non è il bavaglio nella durata. Capito? Io quando faccio un lavoro che faccio io in giro di 2 ore mi metto anche 100 euro puliti in tasca, 120, in giro di 2 ore, cazzo, ho travagliato, tutta ciò travagliato, ero buttato lì, no, non va bene, dai, non va bene, ora pagalo bene a uno, cioè devi pagare la trasferta anche. Non dico che devi dare la panda rubata, che non sono pulissi, poi ci sono, sai, gli stand lì che affondano, vabbè, guarda, noi siamo del service, siamo andato adesso a Gavino per dirci una cosa, un esempio, così noi facciamo così e ce la facciamo da bere. la verità, no, di continuo, poi magari c'è un responsabile, io, vedete com'è, la verità, un suo tipo a 10, a mangiare panino, ha fatto il panino, la birra, ma birra, canto di buliga, ma vero qua, se questa ci tiri dall'oggi. Sì, andiamo anche con noi, ma con noi birra non ce n'è, con noi birra non ce n'è perché sul lavoro non si beve, però all'acqua se ti serve qualcosa ce l'hai, no, se metti la macchina tua c'è il rimborso del gasolio, della benzina, e poi ti ripeto, la cosa importante è che sei assunto dall'agenzia, che sei assunto dall'agenzia, quello al giorno d'oggi è una cosa importante. Sì, ci sono sciaccalli in giro, ci sono sciaccalli che ti prendono, ti usano, miserabili. Per cui tanto la persona però dal punto di vista lì è un po' tirchietto. Sarebbe più che avere un bel contratto, ma c'è veramente di lavorare seriamente, così dopo sempre sognato, perché dove lavoro io purtroppo non mi tratta bene, perché ho un capo mio, hai capito? E ci sto resistendo perché ho bisogno, ho una famiglia, adesso sono anche fortunato, non posso lavorare, non vedo l'ora di rimettermi a posto. Cioè, capi, mi stai facendo capire allora che questo qua su di noi prendeva la sua parte senza fare niente, giusto? Me lo confermi? Non lo so lui, io cosa faceva lui. Poporazzi, lui usciva per poco prezzo, così guarda una serata, e magari i soldi per volano quelli, no? Non c'è speculazione in quello. Ma lui invece di magari noi una serata 3.000 euro, ma lui usciva per 800, mi segui, ma per 800 devi tu, i soldi è gasolio, i soldi per lui, i soldi è, e quindi ti dava poco per quello lì, mi segui, no, per quello là, per quella tua assicurazione, no? No, non hai capito, allora questo che chiamava a noi, praticamente, lui sicuramente richiedeva, cosa ne so, a persona, andavano fin 4, no? A persona richiedeva 100, 120, e lui ci dava, fallo slento, avanza, fallo 100 euro, e lui ci metteva 50 euro a testa pulita e sa fare un cazzo, capito? No, funziona così. Lui non chiede soldi per lui, lui chiede soldi a serata. Magari quella era una serata, cosa ne so, da poco, presa per poco prezzo e ha dato poco, mi segui. Ma tu non mi vuoi dare a me 50 euro per andare in manna? Cioè, mi hai dato 100 euro la cavalcata la sera, ho fatto sicurezza lì in piazza, questa Italia, e ho fatto dalle 18 alle 2 di notte, mi ha dato 100 euro, vanno bene. La cavalcata c'ero io quest'anno con Brian con Service. E mi ha dato 100 euro, ma non so chiamare con chi sia questo Brian. Ma che ha dato? Quello che ha avuto parole tu, quello lì è. Cosa? Quello che ha avuto parole tu è alto, questo Brian. No, assolutamente Brian è una persona serissima. È tutto un po', ma cammina troppo così. E lui sai che era rubato. Lo sai che abita con la Ferrovia, peccato. Io sono amico del padre, lo conosco bene, ma bene, è una persona che ti posso dire, guarda, è una persona seria. Ma come fa questo Brian? Come mai giovane questo Brian? Sì, no. Ah, Gavi, giovane? Sì, 42 anni, 43. Ah, più piccolo di me. E ricordiamo come fa? Bravi, non te lo dico. Ti mando un messaggio su WhatsApp. Sì, sono al franco, sono persone serie, non c'è storia. Va bene. Lui devo lasciare che è arrivata una compagna con una figlia. Che può mettere anche da mangiare alle bestiacce. Ci sentiamo domani se coincide, tanto già io guarda, già sono in radio. Ehi, Gavi, stavo aspettando un po', non è più rientrato, cioè Stasera ad embriagarsi. Va bene, dai, io chiudo, ciao Antonio, che adesso ci sentiamo domani, ciao Gavi. Aggiornami dai, ok. Lo fare sapere, qui là. Alla prossima, ciao, buonanotte. Con la camomilla mi stavo ubriacando. Tu sei ubriaco con la camomilla, no? Va bene, sì, sì, tanto per la stagione già si cercano, già si cercano. Ok, buonanotte, ciao Antonello, ciao Luca e ciao Antonio. Qualcuno c'ha l'età mia, sono persone veramente come si deve, come si deve, non posso assicurare. Ciao Jock, ci sentiamo, buon quedetti, buon tutto, a domani. Avanti Luca. Non lo metto in dubbio, ci mancherebbe, no, ma quello che intendevo dire era Gavino, è che questa persona qua chiamava le persone ma ci guadagnava pure lui, capito? Non so che ce lo fa Brian, attenzione, dico, questo qua come ci guadagnava? E tu lo sai benissimo, Antu. Non so, infatti io sto cercando una persona seria che mi faccia un po' bravo, non per lavorare tutta la stagione, perché mi sono rotto i coglioni, sono ricca, aiutare. Chiedo pure io che mi faccio di mani rucci, mi riposo un po', sentiamo tanto, ciao, buon buone anche a te, alla prossima, domani, ciao, buonanotte. Chiudo pure io, buonanotte a tutti, dai. Ciao Luca, ciao Antonio, ci sentiamo, statemi bene, buonanotte e buon tutto.